passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Bene, gentili ascoltatori, 18:37 minuti in questo momento, vi ricordo i numeri per intervenire in diretta e parlare con noi, dire la vostra sui fatti del giorno: il numero verde per le telefonate 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara @radio24.it per la vostra mail. Iniziamo subito, TG2 titoli. Per lo stupro di Guidoni arrestati 4 rumeni, uno di loro ha confessato, la folla tenta il linciaggio, la vittima è la fine di un incubo. L'Italia richiama l'ambasciatore in Brasile dopo la negazione dell'estradizione del terrorista Battisti. Il ministro degli esteri Frattini al TG2 dice la decisione brasiliana è inaccettabile. I carabinieri del NAS sequestrano 1.000 tonnellate di cibi avariati, pronti ad essere immessi sul mercato per un valore di 8 milioni di euro. Denunciate 315 persone. Giornata della memoria. Napolitano, vigilare sull'antisemitismo. Fini, negazionismo infame. Berlusconi, leggi razziali, ferita ancora aperta. In tutto il mondo il ricordo dell'Olocausto. C'è un grande accanimento, una grande attenzione sulla vicenda di Lampedusa, ma i dati dicono altre cose. La vera guerra contro l'immigrazione clandestina è in realtà nei cieli. Secondo i dati del Viminale, solo il 3% dei clandestini arriva nel nostro paese via mare, gli altri sbarcano tranquillamente in aeroporto. Il 63%, andiamo a sentire i titoli di Studio Aperto. In carcere, Branco di Rumeni, accusato di avere stuprato una ragazza a Guidonia, hanno rischiato il linciaggio della folla. Uno avrebbe già confessato. Sono 4 ventenni, da poco in Italia. Volevano fuggire a Padova, aiutati da 2 connazionali. Per incastrarli, decisive le intercettazioni telefoniche. Riesplode a Milano la guerra tra le bande di ragazzi sudamericani. Gravi 2 studenti accoltellati per ritorsione davanti ad una scuola. E dopo Latin King, Chicago e New York, spuntano nuove gang di giovanissimi. Assalto in villa nel Bresciano, padre e figlia derubati in casa da 3 rapinatori incappucciati. Picchiavano senza pietà, avevano l'accento straniero. Una settimana fa un altro colpo in zona, forse gli stessi banditi. Braccio di ferro sul caso Battisti, il governo italiano richiama l'ambasciatore, ma il Brasile smentisce crisi diplomatiche. Per il ministro Frattini è inammissibile il no all'estradizione dell'ex terrorista e c'è chi proponeva annulliamo l'amichevole tra la nazionale di calcio e i Carioca, ma la partita si giocherà. Cercasi adolescenti per un film sull'anoressia. A Milano alle selezioni per Male di Miele si sono presentati in tanti ragazzi al loro debutto come attori che hanno portato domande e riflessioni su un disagio che uccide. Nella casa del Grande Fratello entrano gli avvocati. Bene, i legali dell'oste. 18:40, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Alimentare false aspettative sulla sicurezza porta poi alla fine a questi risultati, per carità. In tutti i casi come questi di stupro, cose gravissime, si sono sentite parole del genere. Queste sono particolarmente violente dopo l'arresto dei romeni responsabili dei fatti di Guidonia. Sentiamo questo servizio del TG1, le parole fanno abbastanza impressione, sentite. Rabbia della gente davanti agli stupratori. Guidonia, pochi minuti fa, i carabinieri trasferiscono i romeni che giovinotte hanno violentato una ragazza e picchiato selvaggiamente il suo fidanzato. Sono 6, tutti sotto i 30 anni. Decine di ragazzi, alcuni incappucciati, cercano di aggredirli. Ci sono degli scontri, le auto dei carabinieri vengono danneggiate. Ammazziamo tutti! 4 di loro sono stati fermati qui la scorsa notte verso 1. Erano a bordo di una vecchia BMW, stavano scappando, stavano cercando di tornare in Romania. Determinanti nelle indagini le intercettazioni dei telefonini, intercettazioni che hanno permesso di arrestare un altro romeno accusato di favoreggiamento. Il 6° elemento del gruppo potrebbe essere un 24enne, sempre romeno, fermato nei giorni scorsi per una rapina ad un'altra coppietta avvenuta nella stessa zona con le stesse modalità. Questi li devono prendere e chiudere nelle gabbie insieme agli animali. Che sono 5 animali. Avete sentito? Prenderli e chiuderli nelle gabbie da Colle Fiorito, il paese natale della ragazza. Io li impiccherei tutti. Li impiccherei tutti. i delinquenti, perché ci stanno persone brave e persone cattive. E se non fa nessuno niente, giustizia la facciamo da soli, insomma. Questo viene fuori, ripeto, secondo me anche per tutte le aspettative che vengono create sulla vicenda della sicurezza. E le parole più ragionevoli, paradossalmente, vengono, anche se sono parole che contraddicono interviste precedenti. La persona è particolarmente toccata, come potete immaginare, la ragazza stuprata a Capodanno. E sul ragazzo scarcerato agli arresti domiciliari dice: ho fiducia nella giustizia, in realtà non è stato scarcerato, è ai domiciliari. Parole molto più ragionevoli di quelle che continuiamo ad ascoltare da parte dei politici che si indignano per gli arresti domiciliari. Sentite. Ringrazio le forze dell'ordine che hanno trovato questo ragazzo, i magistrati che si stanno occupando del mio caso, però ora come ora voglio solamente essere lasciata in pace. Non è stato scarcerato il ragazzo, io credo nella giustizia. La giustizia farà il suo corso, c'è tempo, ci sarà un processo. Basta. E mi sembrano parole da ascoltare. Non voglio annoiarvi con discussioni religiose che riguardano cose interne alla Chiesa, la riconciliazione con i cosiddetti lefevriani, i tradizionalisti, potremmo definirli, del cattolicesimo, ma è certamente intollerabile, questo lo si può dire, che un uomo del genere, si tratta di Richard Williamson, esponente di spicco dei lefevriani, possa fare il vescovo. Dice: neppure un ebreo è stato ucciso nelle camere a gas. Sentite l'audio in inglese, ma è facilmente comprensibile. Il significato è però questo: neppure un ebreo è stato ucciso nelle camere a gas. Non è che l'ha detto 30 anni fa, che pure sarebbe stato grave. Nel novembre del 2008 ad una televisione svedese, sentite le parole. I believe that the historical evidence is hugely against 6 million Jews having been deliberately gassed in gas chambers as a deliberate policy of Adolf Hitler. But you say not one was killed? In gas chambers. So there was no gas chambers? I believe there were no gas chambers. 800 24 00 24, la nostra campagna sulla vicenda Battisti dopo l'appello di Maurizio Costanzo alla nostra radio, sulle cartoline da inviare all'ambasciata brasiliana e altre cose ancora. Oggi è venuta una proposta molto forte, quella che riguarda l'amichevole Italia-Brasile del 10 di febbraio. Si potrebbe pensare a non giocare questa partita, proposta venuta dal senatore Alfredo Mantica, che saluto, buonasera. Buonasera. Il senatore Alfredo Mantica, sottosegretario agli esteri, è conosciuto per essere una persona moderata, dico così, una persona ragionevole e moderata. Ora viene fuori con questa proposta, che è una proposta provocatoria. Che tipo di proposta è? Perché il sottosegretario, il suo collega dello sport, che si chiama Crimi, sempre della maggioranza naturalmente, dice: no, l'amichevole si giocherà. Ci spieghi un po', Mantica. Ma guardi, io ho sentito molte reazioni che sono tutte incentrate su lo sport unisce e non divide, quindi lo spirito sportivo non può essere intaccato da problemi politici, che è anche vero. Però vi devo anche dire che il Corriere sta facendo un sondaggio su questa proposta. Poco tempo fa, mezz'ora fa, avevano risposto 14.000 persone, il 72% delle risposte era positivo sulla non giocare la partita. La mia è una provocazione, voglio dire, c'è sempre un problema, è chiaro che la decisione non spetta alla politica, spetta alla Federazione Italiana di Calcio. Io voglio solo ricordare del motivo da cui sono partito, che un grande calciatore brasiliano che ha giocato in Italia, Angelo Benedetto Sormani, ha fatto una dichiarazione 8 giorni fa, cioè nel momento caldo, come brasiliano che ha vissuto in Italia, dicendo al suo governo che era un errore tragico e che non era vero che l'Italia era un paese dove c'erano preoccupazioni per il criminale Battisti, su torture in carcere oppure addirittura a morte, eccetera. Ora, mi pare che se un calciatore che ha giocato in Italia ha questa sensibilità, forse chiedere ai calciatori brasiliani che stanno giocando in Italia, come dire, di prendere atto di questa vicenda. Certo, sono calciatori, ma sono anche uomini, persone, credo che abbiano una vita e abbiano interessi politici. È un discorso anche di valutazione di un rapporto. Noi abbiamo accolto il presidente Lula a braccia aperte quando è venuto, sì. Era giusto così, era un grande paese amico, è un grande paese amico con cui abbiamo relazioni storiche, 20 milioni di cittadini brasiliani. Lei dice in sostanza, Mantica, mi scusi, lei dice anche il calcio, e si gioca una partita di grande visibilità, non può rimanere... Coppa del Mondo posso capire, ma sì. È un amichevole in uno spirito di amicizia. Io dico pensiamoci, ragioniamo, è obbligatorio farla, non lo so, possibile che un fatto di questo genere che ha sollevato reazioni unanime nel mondo italiano, come c'è il Presidente della Repubblica, venga ignorato assolutamente da chi dà il pallone? Mi sembra fuori posto e fuori luogo. Allora, rimanga un attimo con me, l'aggiorno sul sondaggio su Corriere.it cui lei ha fatto riferimento, 72,5% sono favorevoli all'annullamento della amichevole tra Italia e Brasile, 27,5% non favorevoli. Anche a me fa impressione questo sondaggio, è un sondaggio, insomma, chi va su Corriere.it può farlo, naturalmente non è un sondaggio, diciamo, con tutti i crismi del caso, però è abbastanza significativo. Bene, andiamo al sodo però, senatore Mantica, fosse per lei, naturalmente non dipende da lei, fosse per lei l'amichevole Italia-Brasile del 10 febbraio, causa vicenda Battisti e il rifugiato, lo status di rifugiato politico dato dal Brasile a Battisti, non si giocherebbe così? Io credo che sarebbe opportuno non giocarla, non ci vedo nessuna tragedia, oppure usare questa partita per dire si gioca, ma certamente l'amicizia fra le due comunità nazionali non è certamente tale da dire che questa è una partita amichevole. Insomma, ecco, io credo che presa di posizione non è possibile, voglio dire, ignorare quello che sta avvenendo. L'insulto rivolto, vede, non è un insulto rivolto a un governo, perché questo fa parte del dibattito politico. Qui si sostiene che in Italia si torturano i prigionieri e si perseguitano i prigionieri in carcere. Se posso dire, l'ultima, che era la Baraldini, che aveva portato qua negli Stati Uniti e poi uscita dopo 2 anni e stava benissimo. Cioè, voglio dire, non mi pare che nella storia d'Italia mai nessuno possa dire il minimo di quello che ha detto il governo brasiliano. E torno a sottolineare, il governo e non la magistratura brasiliana, che ha espresso un parere assolutamente diverso. Le chiedo un'altra cosa: la Francia, secondo lei, se ne sono dette di tutti i colori, abbiamo avuto anche la versione di Madame Sarkozy l'altro giorno da Fazio, se ne sono dette di tutti i colori, lei pensa che c'entri qualcosa in questa vicenda? Ci sono state pressioni oppure no? Guarda, dopo le dichiarazioni di Madame Sarkozy bisogna prenderne atto. Prendo anche atto che ha detto che ha la doppia cittadinanza e sono lieta, che le dispiace rinunciare alla cittadinanza italiana. Ricordo che ha detto altre cose 15 giorni fa, però è importante che abbia detto quello che ha detto da Fazio, ne prendiamo atto. Resta qualche dubbio, ma di fronte a una dichiarazione ufficiale della moglie del Presidente della Repubblica, ovviamente è inutile continuare in questa polemica. Senta, un'altra cosa, ci sono molti ascoltatori che scrivono: il calcio è un'altra cosa, lasciamo perdere, Italia-Brasile non si gioca da tantissimo tempo, dal 97, una partita storica, perché privarci, diciamo, di questa gioia che riguarda il calcio? In fin dei conti i calciatori non c'entrano assolutamente nulla, e nemmeno il pubblico del calcio, con una vicenda che certamente è grave, secondo me è gravissima, tant'è che stiamo facendo una campagna dal titolo Aridateci e Battisti, ma insomma il calcio cosa c'entra? Come si risponde a questa contestazione? Ma io credo che il calcio sia una manifestazione sportiva e quindi di un tentativo di affratellare, di unire, eccetera. Su questo sono assolutamente d'accordo, però sia chi gioca calcio sia chi va allo stadio è un cittadino di un paese a cui è stato rivolto un'offesa. Credo che prendere in considerazione questa ipotesi non sia offendere assolutamente il calcio, perché il calcio, voglio dire, è anche amicizia nella misura in cui i due intendono essere amici. Se resta questa ferita della decisione su Battisti, è un'amicizia comunque segnata da una ferita grave. La ringrazio, buona serata. Prego, grazie a voi. 18:51, 800 24 00 24. E certo che noi d'Italia Brasile cosa ricordiamo? Ricordiamo Italia Brasile, per esempio, del 1970. È iniziata la finale. Sul cross di Riverino, colpo di testa di Pelé. E il Brasile in vantaggio. Fuori segna. Oppure ricordiamo Italia-Brasile dell'82 con il primo gol di Rossi. Conti chiama in avanti Cabrini. Rossi, gol! Rossi! Italia in vantaggio, Rossi! E più mestamente ancora Italia-Brasile del 94. Roberto Baggio contro Pagliuca. Taffarelli. Ecco Roberto. Alto! il campionato del mondo è finito, lo vince il Brasile ai calci di rigore. E allora questa partita si giocherà o non si giocherà? Naturalmente si giocherà, almeno questo lasciano trapelare i grandi capi del calcio italiano. 800 24 00 24, ancora su Battisti, perché c'è una novità di oggi: si è pronunciato dall'alto della sua sapienza l'ex ministro degli esteri D'Alema, che dice è un errore del Brasile, però dà una bacchettata al governo. Il governo brasiliano ha compiuto un errore, a mio giudizio, grave nel concedere l'asilo politico ad una persona che non meritava lo status di rifugiato politico. Probabilmente questa vicenda non è stata gestita al meglio neppure dal governo italiano, nel senso della preparazione, nel senso della capacità di ottenere dal Brasile. Noi veniamo da due vicende abbastanza allarmanti. La Francia ci ha negato l'estradizione di una terrorista condannata per gravi reati. Adesso poi lo fa il Brasile. E poi la vicenda Battisti, vuole dire D'Alema. Secondo D'Alema il governo si è comportato male, non ha agito bene, non ha agito come avrebbe dovuto. 18:53, voglio sentire qualche ascoltatore prima del giornale radio. Andiamo a Roberto, Modena. Buonasera. Buonasera. Dica. Io sono sul caso Battisti, mi sente? La sento molto bene, dica pure. Io sul caso Battisti sono esterrefatto e indignato, perché non c'è da chiedersi dell'estradizione non concessa dal Brasile. L'unica domanda è: perché è arrivato in Brasile? Chi è che gli ha lasciato andare in Brasile? La Francia, le autorità francesi evidentemente hanno controllato male, è scappato con documenti falsi. E prima che arrivasse in Francia? Dov'era? Era in Italia, ma insomma non ripercorriamo qui la storia di Battisti. Non ripercorriamo là, alla fine... No, ma nel senso che ci sono tante responsabilità sulla fuga di Battisti, uno potrebbe ripercorrere una per una andando dalla fine degli anni Ottanta in avanti, per carità. In Brasile, perché scappare dopo una condanna e dopo aver fatto tutto quello che ha fatto lo si può fare solo se dietro ha un paese come l'Italia che da anni e anni, anni lascia scappare o lascia... fa in modo che certa gente, tipo come la Petrella in Francia e tanti altri, non paghino, perché questa gente da 20-25 anni che dovrebbe essere in carcere in Italia e non c'è. No, lei ha ragione, Roberto, le do ragione. È l'unica cosa vera, perché altrimenti non si può non possiamo prendercela con il Brasile e con Battisti, che è stato furbo a farci trovare là. Battisti fa il suo mestiere, scappa. Tanto di cappello, diciamo. Tani deve essere in carcere in Italia e pagare. Non siamo stati capaci di tenerli in carcere, quindi cosa pretendiamo? Che il Brasile... Va bene, è ovvio che il Brasile si sta comportando male, ma la colpa è solo nostra, ed è questo quello che bisogna dire. Troppa gente è fuori senza aver pagato. Poi cosa si pretende quando uno è a 10.000 km di distanza in un paese che magari non si comporta bene? La colpa è solo italiana. Questo è quello che mi fa indignare, perché tanta gente delle Brigate Rosse non ha pagato. La ringrazio Roberto. Nicola da Verona, buonasera Nicola. Buonasera, vi ringrazio dello spazio che mi date, è sempre un piacere parlare con voi. Io, il mio intervento riguardo al caso Battisti è un attimino, vorrebbe mettere in luce una cosa, un aspetto diverso, cioè mi chiedo perché il governo italiano non ha avuto la stessa indignazione a livello politico che stiamo avendo in questi giorni, dovuta alla decisione del governo brasiliano per la mancata estradizione di Battisti, perché il governo italiano non ha avuto la stessa indignazione nei confronti della mancata estradizione di quel militare americano che sul Cernis uccise 46 persone con un aereo, oppure nel caso del militare americano che sparò... La ringrazio Nicola, ho capito benissimo, se vuole può intervenire dopo. Come sapete, andiamo subito a sentire i titoli dal TG3. Giornata della memoria, napoletano vigilare contro l'antisemitismo, legittimo criticare Israele, non negarne l'esistenza. Arrestati 4 romeni per lo stupro di Guidonio, uno di loro ha già confessato, la folla ha tentato di linciarli. Pacchetto anticrisi al Senato, fiducia e voto definitivo, PDL e Lega misure adeguate, l'opposizione e il governo dimentica le famiglie. Crisi dell'auto, domani incontro governo, sindacati, imprese, in discussione un pacchetto di aiuti, stasera i vertici Fiat a Palazzo Chigi. Striscia di Gaza, rotta la tregua, soldato israeliano ucciso da una bomba, altri 3 feriti, Israele reagisce, 2 vittime palestinesi. Crisi diplomatica con il Brasile per la mancata estradizione del terrorista Battisti, l'Italia richiama l'ambasciatore per consultazioni. A Lampedusa lo sciopero contro il nuovo centro per gli immigrati, corone di fiori in mare per le vittime dei viaggi della disperazione. E nel giorno della memoria cresce lo sdegno per le parole del vescovo negazionista Williamson, le camere a gas mai esistite. Eccoci qua con l'ultimo titolo del TG3 dedicato alla vicenda Williamson, su cui ci sono novità importanti. Non so quanto vi interessano, andiamo prima a sentire Sky TG24. Guidoni, assalto della folla inferocita, i 6 romeni accusati dello stupro. Uno ha già confessato, erano in 4 nel branco dei violentatori. Crisi della Fiat, questa sera incontro tra governo e Marchionne a Palazzo Chigi. Un folle apre il fuoco in un locale a Portland, 2 ragazze morte, grave un'italiana. Caso Battisti, crisi diplomatica tra Italia e Brasile, la Farnesina richiama l'ambasciatore. D'Alema, Sky TG24, critico con la politica estera del governo, manca la credibilità, dice. Alfano lancia l'allarme carceri, siamo ai livelli drammatici del pre-indulto. Il giorno della memoria, Napolitano, assurdo discutere l'esistenza di Israele. Anno zero, Frattini attacca Santoro che replica, il ministro si scusi. Obama cerca il dialogo, segnali di apertura da Teheran a Mosca. Bene, 1918 800 24 0024, dopo aver parlato del caso Battisti, su cui torneremo fra pochissimo. Che tristezza vedere la passionaria di Alitalia, una che si batteva per i diritti, contro il licenziamento, contro i nuovi padroni di Alitalia, per la dignità della compagnia di bandiera. Che tristezza vedere tutto questo trasformarsi in una bega giuridica tra i suoi avvocati e la CAI, che la chiama per andare su un aereo mentre lei è all'interno della casa del Grande Fratello. Alfonso Signorini contro Daniela Martani, ieri sera al Grande Fratello, sentite. Tu sei stata con quel cappio a collo il simbolo, l'icona di un disagio di migliaia di colleghi, di un'azienda che stava alla canna del gas. Adesso tu, scusami, consentimi, ma a me viene da pensare che tu abbia sfruttato quelle immagini per poter finire sui giornali, il mio compreso, perché per carità, e alla fine per essere andata nella casa del Grande Fratello. Io voglio dire che io non ci sto a vedere una moderna Che Guevara che, perché incontra il marito ricco, diventa Ivana Trump. Mi dispiace. Dani, ecco. Allora, è vero che io lavoro in Alitalia da 11 anni, ma è anche vero che io da quando sono piccola ho iniziato, diciamo, a studiare recitazione e canto. Il provino per il Grande Fratello non l'ho fatto soltanto quest'anno, ma anche negli anni passati. Così come ho fatto anche i provini per altre trasmissioni. Così, ma non mi interessa nei provini, mi interessa sapere perché tu devi essere messa in cassa integrazione. Scusa, ma tu hai ragione. Daniela, naturalmente io purtroppo non avevo la possibilità di poter chiedere l'aspettativa. Se avessi avuto questa opportunità l'avrei fatto, ma così. Però avevi la possibilità di licenziarti e non l'hai fatto. Ma perché mi devo licenziare? Perché per coerenza. Ma che coerenza? Ma per coerenza. Ma tante persone qui sono dei lavoratori che hanno avuto la possibilità di poter chiedere l'aspettativa. Ma perché non la posso chiedere io l'aspettativa? Perché devo perdere il posto di lavoro? Ah, sì? Ci sono altre persone che hanno chiesto l'aspettativa. Ma quando tu uscirai da questa casa e andrai a fare le ospitate nelle discoteche a pagamento, vuoi pure prendere lo stipendio dalla casa? Ma che tristezza, che immensa tristezza. C'è da spiegare, ci sono mille beghe giuridiche, naturalmente, di cui non ci interessa assolutamente nulla, che la cassa integrazione volontaria chiesta da questa hostess dell'Alitalia, che è all'interno della casa del Grande Fratello e che fu invitata in tutti i talk show da Santoro, eccetera eccetera, la cassa integrazione volontaria sarebbe stata uno scivolo grazie al quale per 2 o 3 anni, pagato da noi, questa signora avrebbe avuto garantiti 800 euro al mese, mentre poi naturalmente si poteva dedicare a tutto il circo post reality. 1921 800 24 0024, dimentichiamo queste cose e andiamo alla vicenda Battisti, perché c'è stata oggi una novità importante oltre alle dichiarazioni di D'Alema che abbiamo ascoltato prima, per carità, cioè dire il ministro Frattini che ha richiamato l'ambasciatore. Queste cose, queste schermaglie diplomatiche, non so fino a quando dureranno. Certo, il clima tra Italia e Brasile, in vista anche del G8, di un possibile appuntamento per marzo, dove poteva essere in agenda, ancora non era fissata, una visita di Berlusconi in Brasile, che adesso è in forze. E, insomma, pesano nel rapporto tra i due paesi. Il richiamo dell'ambasciatore Frattini. Ho deciso di convocare qui il nostro ambasciatore a Brasilia perché da un paese amico come il Brasile non ce lo saremmo aspettato. Evidentemente avevamo immaginato un processo che si concludesse alla Corte Suprema, ma evidentemente il procuratore generale in sole 48 ore ha deciso di liquidare la questione, quasi a non voler decidere. Questo credo che sia un fatto grave. E c'è la novità del sottosegretario Mantica, che, come avete ascoltato anche ai nostri microfoni prima nella prima parte della trasmissione, chiede addirittura l'annullamento dell'amichevole Italia-Brasile il 10 febbraio prossimo a Londra. Il sottosegretario Crimi allo sport dice no, l'amichevole si giocherà. Anche qui sono dichiarazioni politiche che testimoniano, insomma, di una situazione che sembra crescere di irritazione del governo nei confronti del Brasile. 800 24 00 24. Andiamo a sentire una frase che mi ha colpito molto questa mattina nella trasmissione 24 Mattino condotta da Alessandro Milan, ed è stata pronunciata dal vice sindaco di Milano Decorato, il quale pone una questione importante. Quando assistiamo alle manifestazioni di piazza e ci sono spesso dei danni, vetrine rotte, macchine danneggiate o bruciate, cassonetti dell'immondizia, danni che sono sia privati che pubblici, cioè danni che deve subire lo Stato ma anche il privato cittadino che vede un'ammaccatura, un vetro sfondato, la macchina in alcuni casi addirittura bruciata, eccetera eccetera. Chi paga? Non paga mai nessuno, questa è la realtà. Il vice sindaco di Milano dice: beh, insomma, gli organizzatori della manifestazione dovrebbero innanzitutto dare una sorta di pegno, dare una quantità di denaro come assicurazione, e poi dovrebbero pagare gli organizzatori, chi ha indetto le manifestazioni. Non sempre, come nel caso della manifestazione sui centri sociali organizzata sabato a Milano, gli organizzatori sono chiari, addirittura era una manifestazione, diciamo tra virgolette, illegale, e comunque il problema è serio. Sentite Decorato. Rifondazione Comunista ha aderito alla manifestazione ufficialmente con dichiarazioni pubbliche fatte dai responsabili cittadini. Allora, secondo lei chi paga i danni? Il povero cretino che negoziante o povero cittadino che si è visto imbrattare le vetrine e i muri del proprio stabile? Addirittura sono entrati in alcuni negozi rubando con espropri proletari, ritornando un po' agli inizi degli anni Ottanta. Questo per dire la bontà di questi frequentatori del centro di Via Conchetta, tutte persone molto per bene, che entrano nei negozi, rubano, asportano merci, imbrattano muri. La responsabilità ce l'hanno anche i centri, certo, sociali, per carità, ma uno dei responsabili è di Fondazione che ha aderito ufficialmente. Qualcuno prima o poi deve pagare per questi danni, questo mi sembra evidente. 800 24 00 24. Abbiamo detto che ci sono delle novità sul caso dei negazionisti e soprattutto sui lefebvriani. Il vescovo Williamson, le sue parole scioccanti in un'intervista del novembre del 2008: le camere a gas non uccisero neppure un ebreo, praticamente non sono mai esistite. Sono parole gravissime. Quest'uomo certamente non dovrebbe fare più il vescovo, sentite. I believe that the historical evidence is hugely against 6 million Jews having been deliberately gassed in gas chambers as a deliberate policy of Adolf Hitler. But you say not one was killed? In gas chambers. So there was no gas chambers? I believe there were no gas chambers. Avete sentito soprattutto quest'ultima fase: credo che non ci siano state le camere a gas. Adesso la sua congregazione chiede scusa per le parole, ma lui nel suo blog parla di campagna dei media contro i tradizionalisti. Insiste, non è che dice mi sono sbagliato, mi pento, mi cospargo il capo di cenere. No, dice c'è una campagna contro di me, ma avete sentito queste parole pronunciate, ripeto, nel novembre del 2008. Andiamo a sentire qualche ascoltatore. Lorenzo da Perugia, buonasera. Buonasera. Dica. Senta, io volevo intervenire su una cosa tutta diversa da quella che ha trattato fino adesso. In pratica, sulle decisioni dei giudici negli ultimi casi di stupro simili che si sono verificati, no? Ecco, io volevo far notare che sono sconcertanti gli interventi dei politici quando esprimono indignazioni per queste decisioni. In pratica i giudici applicano la legge, e e i politici non sono autorizzati mediaticamente a contestare, condizionando il giudizio del popolo, delle persone, e si adoperino invece per cambiare le leggi che sono quelle, no? Ecco, poi vorrei anche chiedere che i giornalisti, che sono poi i mezzi di informazione, alla fine coloro che potrebbero in pratica portare avanti il discorso dei giudici, dovrebbero un pochino sostenere questa tesi, diciamo, no? Perché a me appare come un attacco mirato questa cosa. La ringrazio, Lorenzo. Andiamo a un altro Lorenzo da Milano. Buonasera. Buonasera. Dica. Io sono un italiano cresciuto in Brasile. Vorrei portare l'opinione di quello che sta succedendo dall'altro lato. Io ho controllato i siti di informazione brasiliani. Quello che stupisce è che il caso Battisti è relegato in fondo all'home page, quando è nell'home page. Sì. Veniva citato settimana scorsa, quando è scoppiato il caso, la prima notizia relativa all'Italia era Kakà che forse cambiava squadra. In questo momento è citato prima la frase di Berlusconi sugli stupri. Sì. Mentre per quanto riguarda il caso Battisti, è uscita la notizia del richiamo dell'ambasciatore, ma il Ministero degli Esteri brasiliano l'ha definita una normale operazione diplomatica. Sì, sulle reazioni del Brasile avete sentito anche il giornale radio, gli altri telegiornali. Diciamo, il Brasile cerca di ridimensionare questa crisi diplomatica. Un giornalista che lavora in Brasile, con cui ci collegheremo più avanti nella trasmissione, ci dice invece il contrario, che invece sui media brasiliani c'è grande attenzione alla vicenda Battisti, naturalmente per quanto possa poi interessare la vicenda di un uomo alla grande maggioranza dei cittadini brasiliani. Voglio farvi riascoltare, perché mi ha particolarmente impressionato, non c'è niente di nuovo, per carità, accade un po' ovunque dopo fatti gravi come gli stupri. Voglio farvi riascoltare, dicevo, il servizio del TG1 che ho sentito oggi a Luna sulle reazioni della gente di Guidonia dopo l'arresto dei romeni per lo stupro nelle campagne di qualche giorno fa. Sentite. La rabbia della gente davanti agli stupratori. Guidonia, pochi minuti fa, i carabinieri trasferiscono i romeni che giovinotte hanno violentato una ragazza e picchiato selvaggiamente il suo fidanzato. Sono sei, tutti sotto i 30 anni. Decine di ragazzi, alcuni incappucciati, cercano di aggredirli. Ci sono degli scontri, le auto dei carabinieri vengono danneggiate. Ammazziamo tutti! Quattro di loro sono stati fermati qui la scorsa notte verso l'una. Erano a bordo di una vecchia BMW, stavano scappando, stavano cercando di tornare in Romania. Determinanti nelle indagini le intercettazioni dei telefonini, intercettazioni che hanno permesso di arrestare un altro romeno accusato di favoreggiamento. Il sesto elemento del gruppo potrebbe essere un 24enne, sempre romeno, fermato nei giorni scorsi per una rapina ad un'altra coppietta avvenuta nella stessa zona con le stesse modalità. Questi li devono prendere e chiudere nelle gabbie insieme agli animali. Che sono cinque animali. E poi la provocazione, lui stessa l'ha definita così, di Alfredo Mantica, sottosegretario agli esteri, cui abbiamo chiesto: ma davvero lei non farebbe giocare, se dipendesse da lei naturalmente, l'amichevole Italia-Brasile? Io credo che sarebbe opportuno non giocarla, non ci vedo nessuna tragedia, oppure usare questa partita per dire si gioca, ma certamente l'amicizia fra le due comunità nazionali non è certamente tale da dire che questa è una partita amichevole, insomma, ecco. Alberto da Prato, buonasera Alberto. Buonasera. Ho vissuto all'estero e mi sono accorto, vivendo all'estero, che la nazionale italiana è la cosa più forte che coagula il sentimento nazionale in Italia. Pertanto mi piacerebbe che questa partita non si giocasse. Mi piacerebbe che non si giocasse perché anche tutti gli italiani, quelli che non seguono la vicenda Battisti, si rendessero conto di che cosa sta succedendo e del perché questa partita non si gioca, e lo stesso facessero i brasiliani. Penso che sarebbe una cosa importante e spero proprio, mi associo al suo grido, arrivateci Battisti. Sì, io in realtà sulla partita e sull'iniziativa di Mantica sono molto scettico, naturalmente non su arrivateci Battisti, perché naturalmente sono d'accordo. Penso invece che non giocare quella partita non possa poi dare nessun tipo di risultato, però come lei ha argomentato il tutto mi sembra significativo, siccome il calcio ha una straordinaria importanza sia in Brasile che in Italia, siccome poi alla fine della vicenda Battisti non è che si conoscono molte cose a livello di grande opinione pubblica, potrebbe essere anche un modo per far arrivare un messaggio all'opinione pubblica, non c'è dubbio, da questo punto di vista potrebbe essere così. Resto contrario a non giocare quella partita, in ogni caso forse da appassionato di calcio, non lo so, non mi sembra un'iniziativa che possa trovare, che poi possa dare qualche risultato concreto, ecco. Stefano ci chiama da Rimini, buonasera. Sì, buonasera, io dicevo due parole sulla questione della persona accusata dello stupro, anzi credo che sia sostanzialmente confesso che è stato messo ai domiciliari. Sì, il famoso stupratore di Capodanno, che poi ha un nome e un cognome, adesso non lo ricordo, ma insomma è stato battezzato anche in questo modo. È necessario che noi ripetiamo, insomma. No, certo. Dunque, premesso che io faccio... che faccio il magistrato e faccio il magistrato del pubblico ministero, cioè quello che normalmente chiede, fa le indagini e se si convince della colpevolezza chiede la condanna e chiede se del caso anche la custodia cautelare. Sì. Io per come è stata raccontata la questione e quindi in astratto sostanzialmente, perché non so poi se ci sono motivi particolari per avere un'idea diversa, non posso che concordare con quello che scriveva ieri Ferrarella sul Corriere, non ha nel nostro sistema, e posto che i magistrati applicano le leggi, non ha nel nostro sistema alcun senso mantenere la custodia cautelare per una persona confessa per il quale non ci sia un pericolo di inquinamento probatorio e non si ritiene sia uno stupratore incallito per cui potrebbe violentare anche qualcuno che sta in casa con lui. Piuttosto sarebbe molto più utile far durare non 1, 2, 3, 4, 5, 6 anni a seconda dei casi i processi persi in formalismi assolutamente inutili e provare a dare i mezzi, anche non i mezzi nel senso dei soldi, anche quelli ci vogliono, ma dare un sistema processuale che abbia un minimo di coerenza e che garantisca un processo, non dico come in Inghilterra che in 30 giorni, 45 al massimo finisce tutto, ma un processo che abbia delle durate appunto umane. Io, ragionevoli, certo. Con tutte queste... guardi umane, basta umane perché ragionevole sarebbe già tanto. Io non ho ancora visto da parte di nessuno, io forse l'ho già detto anche un'altra volta e se mi scuso di queste mie ripetizioni, io negli ultimi 14 anni, cioè negli ultimi quasi 20 anni, dal varo del nuovo codice di procedura penale ad oggi, se togliamo la riforma del giudice unico, cioè dell'unificazione tribunale e preture, che obiettivamente è servita a qualcosa ma poco, io non ricordo una sola riforma che abbia aggiunto una garanzia e accorciato di un giorno la durata dei processi, solo garanzie pressoché inutile o comunque sproporzionate al fine, e una per tutte la disciplina della notifica, sì, certo, che è bestiale, certo. Se io eleggo il domicilio presso il mio difensore e il giudice mi manda una sola copia dell'atto da notificare, come dice, per tutti e due, una per te, una per il difensore, cioè una ve la leggete tutte e due, io ho eletto il domicilio dal mio difensore, no, ne devo mandare due allo stesso domicilio, e se ne mando una sola il processo non va avanti e se nessuno se ne accorge arriva in Cassazione, dopodiché bisogna rifare tutto. Stefano, i problemi veri sono questi, come giustamente ci fa osservare lei, ma naturalmente poi non ne parla nessuno, se ne parla troppo poco. Lei però, siccome lei ci ha detto che fa il pubblico ministero, un giudizio su quelle frasi che abbiamo ascoltato in quel servizio, ma ce ne sono anche altre in altri servizi, quelle frasi di Guidonia, come le giudica? Io sono molto perplesso, insomma, io con tutto che sono portato a chiedermi sempre il perché di uno quando uno fa le cose, anche se non è intimamente connesso con, diciamo, con la funzione, insomma, se io scopro che uno ha commesso un omicidio, poi magari mi chiedo perché, ma non è che lo giustifico, però è solo per capire. Io posso anche, diciamo così, comprendere, non giustificare frasi come queste in un momento di tensione, di emozione, eccetera, eccetera, però secondo me sono figlie di alcuni anni, non alcuni mesi, di prese di posizione populiste e demagogiche che vedono nello straniero, comunque nella persona che delinque magari anche occasionalmente, la somma di tutti i mali. La cosa che mi dispiace veramente è che queste posizioni vengono cavalcate da alcuni politici comunque ignorate, e questa cosa non è, cioè, il problema è che alla lunga legittimano e creano una cultura della non della solidarietà e della comprensione, della rieducazione e anche della punizione, perché uno per essere rieducato deve capire che quello che ha fatto è sbagliato, ma servono secondo me solo a esacerbare il clima e a creare appunto populismo. No, ho capito perfettamente, la ringrazio Stefano del suo intervento. 19:42, andiamo da Aosta da Dario, buonasera. Buonasera. Dica. Senti, io volevo ancora intervenire sulla questione del boicottaggio della partita Italia-Brasile di calcio. Sì. Perché per questa curiosa tendenza che c'è a usare un po' lo sport come una coperta da tirare di volta in volta a seconda delle proprie convenienze, no? Quindi qualcuno predica il boicottaggio quando fa poco comodo ai propri interessi, partiamo dal Cile con la Coppa Davis per andare alle Olimpiadi di Mosca, eccetera, eccetera, o alle ultime Olimpiadi di Pechino. Allora bisogna decidere se lo sport serve per unire i popoli, per far incontrare degli sportivi, o è parafrasando un'altra frase, è un altro mezzo per continuare la lotta politica. Sì, diciamo che in questo caso è davvero incredibile che dopo una vicenda del genere si presenti un'occasione del genere, è assolutamente casuale, naturalmente, perché stiamo parlando di una partita che non viene disputata da 12 anni circa, è sempre una partita storica in un momento di crisi diplomatica tra i due paesi. Si mischiano le due cose e inevitabilmente questa questione, come già avevo capito da molti messaggi, da molte mail degli ascoltatori, sarebbe venuta fuori. Il discorso che lei fa è molto ampio, Dario. Certamente lo sport non dovrebbe essere usato per motivi politici, però inevitabilmente lo sport è diventato talmente importante nella nostra vita che poi alla fine è così. Paolo da Torino, buonasera. Buonasera Crociani. Dica. Complimenti per la trasmissione. Io chiamavo anch'io per la vicenda di Battisti, come l'ascoltatore precedente, e io premetto che come gesto sarei anche d'accordo a non far giocare la partita. Però lo trovo un rimedio abbastanza inutile, che lascia il tempo che trova. Se non sbaglio, la settimana scorsa, in occasione di un altro incontro tra i giocatori brasiliani, venne fatta una proposta simile. Non mi ricordo esattamente da chi è. Però fondamentalmente non vedo perché si debba accollare ai calciatori la responsabilità, una responsabilità che comunque è della politica. E credo che in primis per le vittime del terrorismo e comunque per tutti gli italiani, il governo, di qualunque segno esso sia, in una situazione del genere dovrebbe mostrare un po' di polso e prendere la situazione in mano. Poi, per carità, il calcio, come dicevate prima, è ormai una cosa talmente grande che travalica quelle che sono le sue competenze. Però forzargli la mano così lo trovo un po' inutile. Poi non capisco perché mettere gente come Cacao, Ronaldinho nella posizione di pronunciarsi contro il loro governo. Quello infatti è che abbiamo sentito prima qualche proposta, anche Mantica diceva forse i giocatori brasiliani dovrebbero dire qualcosa. Ecco, quello mi sembra francamente un po' assurdo. Perché costringere qualsiasi persona a pronunciarsi su una cosa? Cacà, Ronaldinho diranno quello che vogliono, se vogliono dirlo, ma certamente non possono essere costretti a dire qualcosa contro la decisione del loro governo su vicende che non conoscono nella maniera più assoluta. La ringrazio. Paolo, una persona che invece conosce molto bene le vicende di cui stiamo parlando è Armando Spataro, che saluto. Buonasera. Buonasera a lei, l'ascoltatore. Armando Spataro è procuratore della Repubblica di Milano, coordinatore del Dipartimento Antiterrorismo. Allora, Spataro è stato il pubblico ministero che insieme ad altri magistrati, non da solo, ha diretto le indagini che poi portarono alle condanne di Cesare Battisti. Spataro, come lei sa, perché non è la prima volta che interviene sulla vicenda Battisti, già quando ci fu la questione dell'estradizione eccetera, si dicono moltissime inesattezze sulle vicende processuali di Battisti, che è la cosa di cui lei si occupa, perché non è che insomma si occupa di altre cose, conosce molto bene la materia. Una delle cose che si dice è che innanzitutto è stato condannato solamente per le accuse dei pentiti che non hanno ritrovato alcun riscontro, e che soprattutto le sue condanne sono state in contumacia, cioè non ha avuto la possibilità di difendersi. Questo dicono alcuni amici di Battisti in Italia e in Francia. Vuole rispondere? Sì, certo, lo dicono amici che hanno o un difetto di informazione oppure sperano di disinformare, perché le cose sono molto semplici. Intanto, per dire, non fu certo la dichiarazione di uno più pentiti ad incastrare Battisti, il quale fu arrestato nel giugno del 79 in una base, all'epoca si chiamavano Covi, dei proletari armati per il comunismo, in via Castelfidardo a Milano, ricolma di armi, mitra, esplosivi, nonché vi furono sequestrati i documenti di rivendicazione degli omicidi commessi dai proletari armati per il comunismo. Quindi lui viene arrestato in un covo, il suo passato viene subito alla luce, era un delinquente comune che si è politicizzato in carcere, un rapinatore, questo per dire che le motivazioni politiche che lo fanno oggi assurgere al ruolo di perseguitato sono ridicole. E dunque sulla vicenda processuale i processi sono stati parecchi, i collaboratori sono stati parecchi, i testimoni che hanno convalidato le dichiarazioni sono stati tanti. Dunque chi dice che c'è solo un pentito, per di più di dubbia attendibilità, dice il falso, non è che dice inesattezze. Punto. Il pentito, pertanto, per informare gli ascoltatori, si chiama Pietro Mutti. Certo. Secondo punto. Sì. Secondo punto, sul processo in contumacia e sulla asserita impossibilità di difendersi. Allora, prima i fatti e poi una decisione importante intervenuta nel 2006. I fatti sono che mentre erano in corso i processi, Battisti è evaso volontariamente dal carcere dove era detenuto, con un'evasione peraltro anche di una certa gravità quanto a modalità. Dunque lui si è sottratto volontariamente a processi che erano in corso, che dovevano farsi, di cui lui aveva piena conoscenza. Siccome questo è uno degli argomenti che è stato degli argomenti più spesi in Francia quando nel 2004 si avvia la procedura di estradizione, poi la Francia la concede ma Battisti è già fuggito in Brasile, sì. Quando viene concessa, i suoi legali fanno ricorso alla Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, che è una corte la cui competenza è proprio quella di accertare se i diritti e garanzie delle persone sono stati violati. La corte in questione, che è composta da giuristi di ogni paese, va bene, ce n'è uno solo italiano, tanto per intenderci, e si chiama Vladimiro Zagrebeschi, sì. La corte respinge il ricorso seccamente, dicendo che non è assolutamente vero, poiché non solo a Battisti era evaso e dunque si era sottratto volontariamente, ma era stato sempre assistito da difensori di fiducia, tanto vero che la Corte commenta le lettere che Battisti mandava ai difensori di fiducia a proposito del processo durante il processo. Quindi lui è stato pienamente difeso da latitante, può essere giudicato in tutto il mondo se si sottrae alla cattura con piena coscienza dei processi. Senta Spataro, un'altra accusa che invece ha fatto direttamente il ministro della giustizia brasiliano in alcuni comunicati eccetera è quello che Battisti sarebbe un perseguitato e che nel sistema giudiziario italiano non c'erano le garanzie per i diritti dei cittadini, per le persone accusate di terrorismo nei cosiddetti anni di piombo. Lasciamo perdere le accuse del ministro della giustizia sul fatto che in Italia siano ancora forze attive e doveva verificare le strutture della CIA o della mafia, insomma il discorso sarebbe lungo e anche un po' ridicolo forse. Però ecco, sul primo punto. Allora, guardi, io ho letto la traduzione integrale che l'ambasciatore valenzese ha avuto la cortesia di inviarmi di quel documento, quello con cui si riconosce lo stato di rifugiato politico. Si deve avere rispetto per le autorità politiche di altri stati, io ce l'ho come cittadino, devo dirle che come giurista penso che se i padri delle democrazie italiana, brasiliana, ma anche di altri paesi, avessero soltanto pensato lontanamente che la concezione dell'asilo politico potesse in futuro essere interpretata come ha fatto il ministro brasiliano, francamente inorridirebbero, poiché intanto vorrei ricordare che in quel documento si citano soltanto i pareri di alcuni cosiddetti intellettuali, peraltro autorevolissimi, che sono la netta minoranza rispetto alla stragrande maggioranza, che ricorda sempre, come fece il Presidente della Repubblica Pertini in un discorso mai dimenticato, che l'Italia è uno dei pochi paesi che può vantarsi di avere sconfitto il terrorismo nelle aule di giustizia e non negli stadi, alludendo evidentemente al sistema di contrasto del terrorismo illegale, come lei sa ancora oggi qualcuno lo teorizza, ma proprio in Italia dimostriamo sì, che, noi, certo. Che noi combattiamo anche questi metri. Quindi quando sento parlare di questo io inorridisco, perché penso, mi permetterà, lei e i lettori mi permetteranno un'immagine retorica che uso però non perché retorica ma perché profonda, io penso a quanti di noi magistrati, poliziotti, uomini delle istituzioni sono morte, penso a Guido Galli, il cui corpo io ho trovato tra i primi quando fu ucciso all'università. Guido Galli era riverso dinanzi all'aula in cui doveva insegnare e stringeva in mano un codice, capisce? Sì. Sono persone che sono morte per il rispetto della legge. Sentire dunque dire che ci sono o c'erano tribunali militari, tribunali speciali, devo dire, è veramente una cosa incredibile e insopportabile. Senta, la ringrazio. Le faccio fare forse una piccola digressione sull'idea che lei si è fatto del perché si stia avvenendo tutto ciò. Io penso che Battisti alla fine faccia il suo mestiere, che è sempre stato quello di scappare, è scappato dappertutto, ha trovato evidentemente, ha cercato un paese in cui evidentemente le pressioni di un gruppo consistente di estremisti di sinistra legati a un'ala del Partito dei Lavoratori ha avuto la meglio, comunque è riuscito a convincere il Ministro della Giustizia. Lei che idea si è fatto di questa vicenda? Io sono abbastanza d'accordo con questo, perché voglio dirle, un articolo che è stato pubblicato pochi giorni fa dal Corriere della Sera a mia firma era stato pubblicato giorni prima su uno dei principali giornali brasiliani, la Folha de San Paolo, sì. E quando ho specificato le notizie che in parte stasera ho ripreso con voi, sono stato sommerso da richieste, email eccetera eccetera della stampa brasiliana, che era totalmente disinformata e che mi ha detto nelle sue comunicazioni di essere sorpresissima di quelle specifiche notizie. Allora, qui c'è stata una lobby politica, non so quanto culturalmente elevata, che sfruttando la disinformazione è riuscito a trovare un canale politico. Non conosco questo ministro, non posso apprezzarne o sì, criticarne, certo, le attività, e ha sfondato in assenza, come dire, di una informazione che sarebbe stata doverosa. Mi sembra assurdo, per esempio, che il ministro della giustizia abbia assunto una decisione inaudita, altra parte, scusi sì, la frase latina, senza sentire il governo italiano o i tecnici italiani. Un'ultimissima cosa, alcuni ascoltatori fanno dei paragoni, perché l'Italia non si indigna nello stesso modo, per esempio, per il caso Zorzi o per altri casi? Sono paragoni che si possono fare oppure no? Beh, secondo me sì. Io devo dirle la verità, anche qui il rispetto è d'obbligo, mi sono un po' meravigliato del silenzio assoluto con cui da parte italiana è stato accolto il rifiuto della Francia di estradare la Marina Petrella. Ecco, qui voglio dirlo con franchezza, non fa meno orrore la decisione, perché in quel caso certo c'è una persona malata, ma avrebbe, come si dice, ma avrebbe potuto benissimo essere assistita e curata anche in Italia. Forse ci vorrebbe un po' più di coerenza. E anche sul caso Zorzi? Il caso Zorzi ritengo anche, però devo dirle con franchezza che non lo conosco fino in fondo. Sì. Di sicuro comunque un principio esistente è questo: quando si chiede l'estradizione e la consegna di un latitante a un paese, non è che quel paese, ove esistono i trattati bilaterali, debba rifare il processo e debba dire sì, effettivamente l'hanno fatto bene, le prove c'erano. Non so sì, se rendo idea. Sì, sì. C'è una presunzione assoluta di affidabilità dell'ordinamento che chiede. Soprattutto se si tratta di paesi democratici che collaborano su altri fronti. Certo, a me è capitato in passato una richiesta di estradizione per la quale diedi io parere negativo, che veniva dalla Siria un testimone decisivo e aveva reso le sue dichiarazioni sotto minaccia di vedersi tagliate le mani. Questo non è accettabile. No, certo. Tra l'altro, sul caso Zorzi bisogna sottolineare che è diverso, perché Battisti non è cittadino brasiliano, mentre Zorzi è diventato cittadino giapponese, dunque ogni stato tende a difendere proprio sempre poi i propri cittadini. Come vede, una mia parziale disinformazione mi impedisce di essere preciso. No, certo, la ringrazio, buona serata. Va bene, buonasera. Gianni da Milano. Gianni, buonasera. Buonasera. Dica. Francamente intervenire dopo Spataro è piuttosto difficile, anche perché alcune cose sono state sviluppate dal vostro intervento. Era proprio sulla questione Battisti e il confronto con molti altri casi, tra cui quello del Fozzorzi, accusato della. Sì, mi scusi perché c'è un SMS straordinario di un ascoltatore, perché ogni tanto bisogna buttarla anche sulle risate, sull'ironia. Soluzione numero due per Battisti: ce lo giochiamo a pallone, chi vince se lo tiene. Giampaolo, straordinario questo SMS, potrebbe essere un'idea. Prego Gianni. Tra l'altro, vabbè, anche questo discorso del boicottaggio di avvenimenti sportivi che periodicamente purtroppo viene riproposto per regolamentare alcune controversie tra paesi mi sembra un po' stucchevole, perché è assolutamente, cioè, nel caso per esempio delle Olimpiadi cinesi, nessuno si è guardato bene, data la potenza economica della Cina, di mettere in discussione il fatto che potessimo fare delle contestazioni per il fatto che ci sono centinaia, migliaia condannati a morte piuttosto che mancanze di democrazia o d'altro, insomma. Sì, però Gianni, ogni caso è io diverso, sono adorato e dispiaciuto per il fatto che Battisti non venga estradato in Italia, però francamente mi sembra un pochino demagogica questa campagna, ma proprio perché non è la prima volta. Ogni paese ha una propria, come dire, legislazione, è un proprio diritto a rispondere alle proprie leggi e alle proprie valutazioni. Ci sono stati molti altri casi, Zorzi, Petrella e non so, molti rifugiati in Italia che sono stati richiesti da altri paesi, che l'Italia si è ben guardata da rimandare indietro. Per cui se si entra in questo campo non se ne esce più. No, ma lei ha ragione, Gianni, lei ha ragione a citare anche. È realmente dolorosa. No, ma ho capito, Gianni. Lei fa bene a citare altri casi. Devo dire che il caso Battisti è tutto particolare, semplicemente perché il Brasile ha dato la patente di rifugiato politico. È molto diversa la cosa. E poi ripeto, sul caso del militare americano del Cermis, del caso di Zorzi, le questioni su cui il governo italiano comunque è intervenuto, magari su Zorzi un po' meno, c'è una differenza fondamentale. Cioè Battisti non è cittadino brasiliano, è cittadino italiano, altrimenti il Brasile non ci pensava nemmeno lontanamente a iniziare la procedura. E nel caso per esempio di Zorzi è cittadino giapponese da tempo, naturalmente nel caso dei militari americani c'è una giurisdizione militare americana che è preminente. Il punto è molto diverso, sono casi molto diversi, non si possono paragonare. La ringrazio, Gianni. Andiamo a sentire chi sentiamo. Andiamo giù nello schermo. Andrea, provincia di Varese, eccoci qui. Sì, buonasera. Mi collego un attimo alla telefonata precedente. Vuol dire che mi sembra che però adesso si sta un po' arrampicando sui vetri, dicendo che tra Zorzi e cittadino giapponese invece. Ma è una questione fondamentale, mi scusi. Cioè, il problema è che io non dico che Zorzi non deve essere estradato. Se l'Italia lo ha condannato per una certa, deve essere assolutamente estradato, sia chiaro questo qua. Però Zorzi è diventato cittadino giapponese dopo quando? Ma io sto dicendo allora, che è comprensibile che diventerà cittadino brasiliano anche Battisti, così abbiamo risolto. Guardi Andrea, sentiamo i titoli dei TG. Alle 20 un minuto andiamo a sentire i titoli del TG1. Nella giornata della memoria i tradizionalisti lefebriani chiedono perdono al Papa per il vescovo che nega le camere a gas. Lo stupro di Guidonia, avrebbe confessato uno dei 6 rumeni arrestati, la folla tenta di linciarli, la vittima, incubo finito. Crisi auto domani, vertice governo, imprese e sindacati a Roma, questa sera a Palazzo Chigi i manager della Fiat. Giustizia intesa nella maggioranza sulle intercettazioni, Alfano, il nemico e la lentezza, Veltroni, mozione comune sul killer Battisti. Obama, prima intervista ad una televisione araba, gli americani non sono nemici dei musulmani, valanga di messaggi al sito di Al-Arabia. Il mantello che rende invisibili, gli occhiali laser per vedere al di là dei muri, ecco le invenzioni previste per i prossimi 30 anni. Erano i titoli del TG1. Mi sembra molto importante, da applausi, l'intervento di Veltroni a porta sulla vicenda Battisti. Non basta richiamare l'ambasciatore, il Presidente del Consiglio chiami Lula e chieda che vengano rispettati i diritti delle vittime, perché questa è una vicenda scandalosa e assurda. Da questo punto di vista il Paese deve essere unito. Non so che effetto possa avere una mia telefonata a Lula, perché poi Vespa gli chiede, se non è il caso, dati i rapporti, di chiamare Lula, ma il passo che noi stiamo compiendo in Parlamento spiega che maggioranza e opposizione devono essere uniti su questo punto, cioè i democratici stanno per proporre in Parlamento una mozione unica di protesta contro l'asilo politico concesso a Battisti, e questa mi sembra un'iniziativa molto molto importante. TG5 titoli. Il giorno della memoria, Napolitano, vigilare sul nuovo antisemitismo, ennesima provocazione dell'Iran, la Shoah un'invenzione. Fini e Veltroni, nessuno può negare la tragedia dell'Olocausto. I lefebriani chiedono perdono per le dichiarazioni negazioniste di Williamson. Manette per il branco di violentatori romeni di Guidonia, traditi dai tracciati del telefonino rubato alla vittima. Uno confessa, la folla inferocita tenta di linciarli. L'Italia richiama l'ambasciatore in Brasile, protesta ufficiale per la mancata estradizione del terrorista Cesare Battisti, considerato un rifugiato politico. Frattini, inaccettabile. Crisi dell'auto, a Palazzo Chigi incontro governo Fiat in vista del vertice di domani. A rischio 60.000 posti diretti e molti di più nell'indotto. In arrivo aiuti al settore. Se il motociclista scivola su una macchia d'olio, per la Cassazione è il comune a dover pagare i danni, in quanto responsabile della manutenzione delle strade. Parto record in California, nati 8 gemelli, pesano tra i 680 grammi e il chilo e mezzo. Tra pannolini e biberon, come si vive con una nidiata di bambini. Va bene, era il TG5. Allora Andrea, il paragone tra la vicenda di Cesare Battisti e quella di Zorzi sono due vicende, io ripeto, completamente diverse. Primo, perché Zorzi è cittadino giapponese e naturalmente ogni paese, a torto o a ragione, tende sempre a difendere i suoi cittadini. Secondo, perché non credo, da quello che mi risulta da una rapida consultazione su internet, che nei confronti di Zorzi, su cui comunque pende una richiesta di estradizione che per adesso il Giappone non ha ottemperato, non ci sono condanne definitive né per la questione di Piazza della Loggia né per Piazza Fontana, eccetera eccetera. Naturalmente questo ciò non toglie che secondo me andrebbe estradato e dovrebbe comparire in Italia per rispondere di quello che eventualmente ha fatto, su questo non c'è dubbio. Andrea, però ok, io mi sono permesso di collegarmi a quello prima perché mi sembrava giusto, secondo me, fare una precisazione. Io ho telefonato precisamente per quanto riguarda il caso Battisti, ma in particolare per quanto riguarda la questione dei boicottaggio, e in particolare sull'atteggiamento che molte persone, e mi è sembrato di cogliere anche un suo atteggiamento abbastanza non, come posso dire, un po', mi permetto di dire la parola forte, un po' ipocrita, in quanto per quanto riguarda sia subito il Brasile sia stato subito pronti a dire ecco sì, votiamo col calcio che è un po' come la religione in Italia, e invece su una persona che effettivamente è colpevole e ha ucciso delle persone, possiamo dirne tutto il male possibile, sì. Però mi ricollego a una trasmissione che purtroppo non sono potuto intervenire qualche giorno fa, relativamente al boicottaggio dei prodotti israeliani. Che c'entra? Qui c'è un assassino riconosciuto con quattro ergastoli, lì c'è una questione in cui uno la può pensare in un modo, uno la può pensare in un altro, qui c'è una certezza, in un altro caso si parla di naturalmente interpretazioni, chi dice che Israele ha fatto bene a intervenire a Gaza e chi dice che si tratta invece di un'azione criminale, eccetera eccetera. Mi scusi Andrea. Però il concetto secondo me è dire, visto che si parla di 1500 morti, di cui 400 bambini, secondo me la dignità umana, indipendentemente che possa essere israeliano, palestinese, americano, italiano, la persona fisica, l'essere umano è uguale. Ho capito Andrea, ma io rispetto profondamente quello che lei dice, detto questo non c'entra assolutamente nulla, a parte che io ero contrario fortemente a qualsiasi tipo di boicottaggio nei confronti di Israele, e ho molti dubbi sul fatto che un boicottaggio nei confronti del Brasile possa servire a qualcosa, dunque da questo punto di vista non ho cambiato idea, ma ancora una volta secondo me le due cose non possono essere paragonate, le due iniziative sarebbero paragonate, perché ripeto, il boicottaggio è una cosa secondo me seria e non va preso così tanto sotto gamba. Io mi ricordo che tanto tempo fa, qualche anno fa, purtroppo sarò stato un idealista. Mi ricordo quando c'era il governo francese aveva fatto gli esperimenti di Mururoa atomiche, era partito un boicottaggio dei prodotti francesi che era andato come era andato. Però sì, ripeto, se tutti, in realtà, secondo me, se tutte le persone cominciassero a fare delle piccole cose, il mondo forse potrebbe cambiare. Non lo so. Gli Stati Uniti ci sta dimostrando che dopo tre giorni ha incominciato a star ribaltando in tutti i sensi un paese che ha vissuto 8 anni di sonnolenza. Vabbè, quindi, questa qua è la sua opinione, che ha vissuto 8 anni di sonnolenza, ma ho capito, lei dice l'importanza dei piccoli gesti, in questo caso, nel caso di Obama naturalmente, della sua linea verde, non sono piccoli gesti ma sono grandi gesti, è un altro discorso. La ringrazio, prima della pubblicità i titoli della 7. Catturati i quattro del branco, autori della violenza su una ragazza a Guidonia. Uno di loro usa il cellulare rubato alla vittima dello stupro, ma viene bloccato mentre fugge. Fuori dalla caserma rischiano il linciaggio. Bastardi, grida la gente. Uno di loro confessa. Altri due romeni fermati per favoreggiamento. Melchionne a Palazzo Chigi per discutere sugli aiuti al settore dell'auto. Anche i sindacati chiedono un massiccio intervento. Governo al bivio, rottamazioni per tutte le industrie o sostegno alle sole aziende italiane. Domani tavolo con le parti sociali. Il mondo ricorda l'Olocausto. In Italia, monito del capo dello Stato, vigili contro l'antisemitismo. Fini attacca il vescovo che nega la Shoah. Parole infami, ancora più se arrivano da un religioso. Al TG La 7 la testimonianza di uno scindere italiano. Approda al Teatro Valle di Roma Il Dubbio, ambientato nel Bronx, anni 60. Il regista Sergio Cassellito e il protagonista Stefano Accorsi nei panni di un prete sospettato di... Prima di tornare alle vostre voci con Alessandro, Andrea, Giacomo e Francesco, che ci chiamano da diverse città italiane, Napoli, Milano, Pescara e Roma, come al solito telefonate da tutta Italia, collegamento con il lontano, ma in questo caso vicinissimo, Brasile, con il corrispondente della Stampa, lavora per la Stampa dal Brasile, Paolo Manzo, che saluto, buonasera, anzi buongiorno per quello che buonasera. Ti riguarda. Che ore sono in Brasile? Buonasera. Dove a voi. Ti trovi a San Paolo? Sono 3 ore prima, quindi sono le 17:10. Ah, beh, no, allora siamo più o meno sulle stesse onde. Allora Paolo, quali sono le ultime novità innanzitutto? Ma le ultime novità sono che appunto nella notte in Italia, la serata di ieri, il procuratore generale della Repubblica brasiliana ha dato il suo parere, che era uno dei tanti attesi, uno dei tanti aspetti ancora di questa vicenda che, se vogliamo, del romanzesco, e si è espresso a favore dell'estinzione del processo di estradizione di Cesare Battisti, sottolineando che già in precedenti casi, dato il parere del Ministro della Giustizia, il Brasile aveva agito concedendo l'asilo politico. Però c'è anche un paragrafo interessante di questo parere che dice: nel caso in cui il Supremo Tribunale Federale, che sarà poi quello che avrà l'ultima parola, volesse decidere a favore dell'estradizione, cosa di cui il promotore ha detto di essere anche d'accordo, se vogliamo, il Supremo Tribunale dovrà cambiare una legge, che è tutta la legge che ha avanzo fino ad oggi in Brasile. Quindi insomma si tratterebbe di cambiare una legge e una giurisprudenza qui in Brasile, quindi diciamo che le possibilità oggettivamente dopo questo parere per l'estradizione di Battisti sono scemate di molto, anche se non è detta l'ultima parola, e dunque c'è ancora da aspettare la pronuncia definitiva del Supremo Tribunale Federale. La cosa che voglio chiederti è molto semplice. Prima l'ascoltatore ci ha chiamato, un italo-brasiliano, dicendo: poi non è che in Brasile ci sia questa grande passione per la vicenda. Ora questo naturalmente è comprensibile, non credo che viene seguita, diciamo, come prima notizia da tutti i telegiornali, perché si tratta pur sempre di un cittadino italiano in Brasile ci sono ben altri problemi, diciamo. Però che spazio occupa, diciamo, nell'opinione pubblica in Brasile? Ma diciamo che sui media ha occupato molto spazio, su tutti i principali giornali ha fatto anche prime pagine, basta vedere oggi i siti del Globo, della Foglia, dell'Estado, di San Paolo, che sono i 3 principali quotidiani brasiliani, contenevano tutte le informazioni su Battisti, sia dal parere di ieri sera che delle reazioni italiane, compresa anche la minaccia di annullare l'amichevole Brasile-Italia. Ecco, su questo ci sono ultime reazioni importanti, cioè viene valutata questa possibilità oppure si pensa ad una provocazione solamente che viene da un sottosegretario in Brasile? Ma no, diciamo che è stata data la notizia, e è stata data la notizia importante nei siti, così come è stata data importanza, molta rilevanza, al fatto che l'Italia ha richiamato l'ambasciatore. Ecco, c'è stata poi una successiva reazione del sito del Ministero degli Esteri brasiliano, che, rilanciando una dichiarazione del Presidente Lula, si dice fiducioso che le relazioni tra Italia e Brasile non avranno, dal punto di vista commerciale, della cooperazione, non avranno ripercussioni. Ma è vero, Paolo, quindi, che ci dovrà essere forse una visita di Berlusconi a marzo? Si pensava che adesso è in forza, è vero questo o no? Ma diciamo che Berlusconi, quando aveva ricevuto Lula qualche settimana fa, in sostanza, aveva detto che sarebbe venuto a febbraio, dopodiché in fonti chiaramente di corridoio dicevano che, chiaramente a febbraio qui è ancora tutto fermo prima del carnevale, che era prevista, secondo le voci, le indiscrezioni, per marzo. Adesso chiaramente questa vicenda, diciamo, che non fa cadere nel momento migliore questa visita, che oggi come oggi è più che mai eventuale. Assolutamente. Ecco. Un'ultimissima cosa ti voglio chiedere e riguarda e riguarda che idea ti sei fatto abbastanza rapidamente, se poi del perché, ministro, cioè, torniamo all'inizio. Io penso fondamentalmente che le pressioni di una parte del Partito dei Lavoratori dell'estrema sinistra sul ministro della Giustizia abbiano avuto la meglio. Per quale motivo, secondo te? Per motivi di politica interna del Brasile? Perché non c'è stata abbastanza informazione? Perché Lula in questo modo ha sedato delle questioni interne brasiliane? Cioè, perché? Ma no, informazione ce n'è tanta. Io cito a questo proposito sia il settimanale Carta Capital che il settimanale Veja, che questa settimana, Carta Capitale in vero da più settimane, ha spiegato qual è la posizione fondamentalmente dell'Italia. Informazione ce n'è tanta, tant'è che sia la Foglia che l'Estadão che l'Istituto Brasiliano Giovanni Falcone, hanno messo sondaggi online per chiedere ai lettori se sono favorevoli o meno alla decisione del ministro brasiliano. Si gira intorno al 70% su tutti i siti di no, che non sono d'accordo. Il perché di questa motivazione, anche lì, parlando con per esempio Eduardo Suplicy, che ho sentito poco fa, c'è la convinzione che la decisione assunta sia corretta e che insomma Battisti sia in sostanza una vittima. Questo è, credo che sia la motivazione che ha portato a questa decisione di genere. Se poi ci sono anche motivi interni politici brasiliani, questo è un discorso che può essere fatto, diciamo, dal punto di vista malizioso, se uno pensa per esempio che al Forum Sociale Mondiale Lula andrà questa volta con 12 ministri e quindi diciamo che anche dal punto di vista politico interno sicuramente la sinistra radicale, che dal punto di vista delle politiche dei biocarburanti eccetera è stata neoliberale, liberale come i precedenti governi, su questa questione ha deciso per convinzione sicuramente di dare un segnale, certo. Quindi, insomma possono essere diversi i motivi. Grazie a Paolo Manzo da San Paolo. Allora andiamo agli ascoltatori che erano in attesa da diverso tempo. Andrea da Napoli, poi Alessandro da Roma, Francesca da Biella. Andrea, buonasera. Buonasera dottor Cruciani. Dica. Io volevo parlare per quanto riguarda il gravissimo problema della Fiat per i probabili aiuti statali che ci saranno domani in Camera di Consiglio al governo, no? Con sì. Marchionne e tutti i top manager. Sì, Consiglio dei Ministri, poi Camera di Consiglio adesso. È un'altra cosa. Che sistematicamente si fanno ogni 5-6 anni, sistematicamente. Ora io avevo una domanda, sì, prima di dare una mia soluzione, anche se la mia modesta soluzione. Perché questo governo, che a luglio aveva già previsto nella finanziaria che ha preparato a luglio, già aveva previsto tutta questa grandissima crisi che ci sta travolgendo, come mai non è riuscito a prevedere anche la crisi che avrebbe travolto il mondo dell'auto? E poi perché siamo arrivati al 28 gennaio con un calo delle vendite del 60%, cioè stiamo parlando che il 60% delle auto sono rimaste invendute, ci sono i piazzali di Cassino e i vari piazzi della Fiat, sono stracolmi, per detta di colleghi che lavorano nel mondo Fiat. Dico, perché bisogna sempre arrivare all'estremo? Non si poteva arginare prima questo gravissimo problema, anche perché si parla di 60.000 lavoratori, non solo 60 lavoratori, 60.000 lavoratori, quindi automaticamente calcolare una media di una famiglia per quattro, calcoliamo un disagio ben più ampio di 60.000 persone, sono 60.000. Sì, ho capito Andrea, famiglia, non è che si possa avere la sfera di cristallo e prevedere tutto con larghissimo anticipo. E poi in che modo bisognava intervenire sul mercato dell'auto? Si discute adesso di eventuali aiuti, la Lega è fortemente contraria, dice che se si aiuta la Fiat allora si deve aiutare anche tutto l'indotto, e anche qui non si capisce cosa significa. Vedremo cosa si deciderà nei prossimi giorni. Alessandro da Roma, buonasera, poi Francesca da Biella, Eginio dalla provincia di Treviso. Alessandro, prego. Grazie, buonasera Cruciani. Buonasera. Io credo che i rapporti tra l'Italia e il Brasile vadano un po' oltre all'importazione dei loro ottimi giocatori di calcio. Io non seguo il calcio, ma credo che questa partita debba essere giocata, lasciamogliela giocare e chiediamo, esigiamo alla nostra classe politica non di avere uscite buttate come quella del sottosegretario, ma di giocare una partita diplomatica, con il Brasile. Non credo che noi si debba andare a uno scontro con quel paese, messi all'angolo, se vogliamo anche costretti a rivedere le loro scelte interne, potremmo essere accusati paradossalmente di ingerenza. Abbiamo ricevuto questa sentenza, è chiaro che dobbiamo lavorare un po' di fino, e questo è il canale diplomatico. Io credo che la nostra politica, la nostra classe dirigente tocchi questo. Ho sentito prima la proposta di Veltroni, che ha ricevuto il suo applauso, il mio e spero quello dell'Italia intera. Sì, e lo sentiamo, lei ha perfettamente ragione, naturalmente bisogna essere seri, e io credo che però una provocazione come quella di Mantica vada presa per quello che è e se ne possa discutere. Sentiamo Veltroni, ripeto, secondo me da applausi a porta a porta. Oggi ho chiesto al mio gruppo parlamentare di lavorare insieme ai gruppi parlamentari di maggioranza per fare una mozione unica, che sia una mozione di protesta del nostro paese, ma nei confronti del Brasile però non basta richiamare l'ambasciatore, bisogna che il Presidente del Consiglio alzi il telefono, parli con il Presidente Lula, faccia sentire la voce e la forza dell'Italia. E questo mi pare particolarmente significativo. 800 24 00 24. Alessandro, resti con me per commentare ancora insieme a Gino, a Francesca Dabiella, e torniamo sul caso di Eluana Englaro, ancora con un ospite, con l'onorevole Giuseppe Palumbo del PDL, che è Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, medico. Buonasera. Buonasera. Allora, abbiamo chiamato Palumbo perché qui c'è uno scontro che dall'esterno lo si può interpretare in questo modo, uno scontro che va ormai in scena da tantissimo tempo. Da una parte c'è il governo con le posizioni del ministro Sacconi, del sottosegretario Roccella, dall'altra Peppino Englaro sulla questione del sondino da staccare o no dal corpo di Eluana Englaro. Lei ha preso una posizione, basta accanimento, le sentenze vanno rispettate, facciamo un passo indietro, cioè una posizione diversa da quella del governo cui appartiene, perché lei fa parte della maggioranza, sì, ed è presidente di una commissione importante. Ci può spiegare? No, ma io non è che c'è uno scontro attualmente nel PDL, assolutamente. No, lo sto dicendo tra il governo ma anche tra il governo, evidentemente ha preso una sua decisione che per certi versi, per carità, potrebbe anche essere giustificata. Io ho espresso la mia opinione in quanto medico e comprendo bene il caso di cui si sta parlando e comprendo anche molto, molto bene, mi immedesimo direi, nella situazione del padre della Englaro. Questa è la mia opinione, molto, diciamo, possiamo dire, personale anche, su cui poi... Quando lei dice facciamo un passo indietro, a chi si rivolge? A Sacconi? Un passo indietro perché io ho detto nell'intervista, forse che è uscita, non... perché io dico in genere che la politica faccia un passo indietro sui problemi etici e che possono essere, diciamo, non dico risolti, ma perlomeno si possono fare delle proposte che siano, diciamo, abbastanza equidistanti da tutte le parti, sia di destra che di sinistra, perché su questi problemi non si può essere né di destra né di sinistra. Lei sostiene sostanzialmente che le sentenze ultime vanno applicate, dunque lei sostiene che il Servizio Sanitario Nazionale deve applicarle, mi spieghi meglio. Ma vi è stata una nuova sentenza del TAR anche sì, sul caso della Lombardia. Sul caso della Lombardia, eccetera, evidentemente abbiamo una sentenza della Cassazione a Corti riunite, se non intervengono casi, fatti nuovi, ricorsi, contro ricorsi, eccetera, evidentemente non so come si possa alla fine evitare di applicare una sentenza della Corte di Cassazione in sezioni riunite. Questo non lo so, no, io non sono uno. Cioè, al di là delle questioni giuridiche, che pure sono importanti in questo caso, anzi, sono fondamentali, secondo lei il Servizio Sanitario Nazionale non può rifiutarsi a questo punto, data la situazione, date le ultime sentenze, di applicare? Di applicare le disposizioni che vengono dall'autorità giudiziaria, cioè dire una clinica cui si rivolge Peppino Englaro deve ottemperare a questa sentenza, è così? Ma io ritengo che la sentenza dovrebbe essere applicata, diciamo, dal punto di vista legislativo. Poi evidentemente se vi sono le cause legali per cui non debba essere applicata, francamente non lo so, ma finora sentenze della Cassazione intese riunite che non sono state applicate penso che non esistano. Se poi vi è un ricorso al Consiglio di Stato che disattivi la sentenza, per carità, e allora si potrà discutere. Mi ha colpito molto oggi sulla stampa un'intervista al dottor Ambrogio Frigerio, che lei sicuramente avrà letto, che è obiettore alla Mangiagalli di Milano, che dice se dovessero chiedere a lei, che è un medico obiettore, di intervenire per interrompere l'alimentazione forzata di Luana Englaro, ovviamente non lo farei. Ma il TAR della Lombardia sostiene che il medico deve rispettare il diritto costituzionale di rifiutare le cure in quanto si tratta di un diritto di libertà assoluto. Ugualmente non lo farei, io sono un medico, non sono un jukebox a cui si può ordinare di fare qualcosa. Ma questo fa parte anche della libertà del medico. Io sono un medico e non mi si possono imporre di fare alcune fra virgolette terapie o atti terapeutici che io non condivido. Senta, secondo lei le frasi di secondo lei le frasi pronunciate qualche tempo fa dal ministro Sacconi nei confronti della clinica di Udine si possono configurare, come hanno detto molti, come minaccia oppure no? No, questo secondo me è molto molto esagerato e la questione è stata molto esasperata in questo senso da tutti i mass media, ma non era questo sicuramente il pensiero del ministro Sacconi. La ringrazio, buona serata. Allora Alessandro voleva completare il suo discorso sui calciatori, il tema è troppo serio per affidarlo ai calciatori, sono d'accordo con lei. Adesso Capello, allenatore dell'Inghilterra, dice un problema serio quello della tra Italia e Brasile, ma la partita va giocata. Ma sì, va giocata anche perché il rischio è quello di irretire anche quello Stato. Ora io aderisco a quello che Costanzo ha lanciato, aridateci, sono di Roma, quindi aridateci e Battisti, è chiaro, deve stare qui e essere giudicato, e lo è stato, e scontare la sua pena. Sta prendendo in giro anche gli italiani, oltre che deridendo i parenti delle vittime. Però il discorso è che bisogna saperle pure fare le cose. Se abbiamo ottenuto quella sentenza e il Brasile dice per la sua legge che gli riconosce l'asilo politico, noi non è che possiamo andare lì a far la guerra al Brasile, dobbiamo agire con i canali diplomatici che sono certo, su questo non c'è dubbio. Qualcuno suggeriva nei giorni scorsi, fossimo a Gerusalemme manderemo i soldati a fare un blitz per prendere Battisti. Forse questo è esagerato, ma al di là dei canali diplomatici forse bisogna dare anche segnali forti da un punto di vista mediatico, cosa che il governo sta cominciando a fare dopo un letargo da questo punto di vista. Prima di Francesca Dabiella andiamo con i titoli del TG2. Lo stupro di Guidonia, confessa uno dei quattro arrestati, sono tutti rumeni, la folla tenta il linciaggio, la vittima è la fine di un incubo. Sono critiche le condizioni della studentessa italiana di 18 anni ferita da un folle all'uscita da una discoteca a Portland in Oregon. Altre due ragazze americane sono rimaste uccise. L'Italia richiama l'ambasciatore in Brasile dopo il no all'estradizione del terrorista Battisti. Il ministro degli esteri Frattini al TG2 dice la decisione brasiliana è inaccettabile. A Palazzo Chigi incontro tra alcuni ministri e il vertice Fiat. Scajola, gli aiuti interesseranno tutto il comparto, non solo l'azienda torinese. Domani il tavolo governo sindacati imprese. In tutto il mondo il ricordo dell'Olocausto. Napolitano vigilare sull'antisemitismo. Schifani al bando l'odio contro la comunità ebraica. Fini, negazionismo infame. E i lefebriani chiedono scusa al Papa per le parole del vescovo che nega le camere a gas. Bene, andiamo allora a Biella a sentire Francesca, buonasera. Buonasera dottor Cruciani, io ho seguito parte della sua trasmissione a proposito di Battisti del Brasile, condivido totalmente quello che è stato detto. Il governo brasiliano ha un atteggiamento che non è assolutamente condivisibile, anzi è inaccettabile, quindi va bene tutto, però pensando un pochino mi è venuto in mente questo. Io conosco bene molti paesi dell'Europa e parlo con la gente. Un pochino di questo atteggiamento forse non è dovuto anche purtroppo alla nostra diminuita credibilità e alla nostra bassa reputazione, mi creda, io difendo a spada tratta l'Italia, però questa sensazione io ce l'ho, non hanno assunto informazioni esatte dal nostro governo, sono stati superficiali, tutto quello che vuole lei, ma noi purtroppo non abbiamo una buona reputazione, lei che dice? Non credo sia così in questo caso, Francesca. In altri casi può essere, credo che abbiano funzionato di più, purtroppo, tragicamente, drammaticamente, i buoni canali che è riuscito Battisti e i suoi amici, i buoni canali che sono riusciti a instaurare all'interno del governo brasiliano. Molto semplicemente questo, una efficace azione di lobbying, sembra incredibile, ma è così. Io non potrò mai dimenticare lo sguardo sorridente quasi di sfida di Battisti quando è stato catturato dagli agenti brasiliani a Copacabana. Cioè, non sembrava uno che era sul punto di essere stradato in Italia, ma insomma uno molto contento del fatto che insomma sapeva in che mani era capitato, che governo c'era in Brasile, eccetera, eccetera. La ringrazio, Francesca. Igino, provincia di Treviso, buonasera. Buonasera a lei, Luciano. Dica. Dunque, sulla questione della povera Eluana. Ecco, io non ho sentito nessuno porsi una domanda, ma questa accanirsi, io lo definisco così, con queste cure, queste apparecchiature, questi macchinari, sempre più perfezionati, sempre più pronti a sopperire a quelle che sono le funzioni vitali, umane e via, arriviamo a un certo punto, lasciamo perdere, io mi auguro che per la povera Eluana la cosa si concluda come lei voleva, come ritengo che lei volesse, più presto, ma una persona che già avanti con l'età succede una cosa del genere, viene attaccato alle macchinette, ma c'è qualcuno che può stabilire quando è il momento in cui si può staccare o si può arrivare a 100, 110 anni, 120, non so, a un certo momento ci sarà qualcuno che dirà no, basta, anche nelle, non so, si va contro quello che è l'essere umano. Anche le sfere clero, le sfere politiche, questo è un caso limite, ma prima o poi ci si arriva e si va a finire in un cul-de-sac dove nessuno ne sa più come venire fuori. A un certo momento dovranno prendere una decisione per cui compiranno anche loro un omicidio, quello che loro definiscono oggi che si compirebbe facendo un gesto tale. Cosa ne pensa? Ma guardi, lei pone la questione che è alla base di tutta la discussione intorno a Eluana Englaro, cosa può essere considerata vita e cosa no, quando non c'è più vita e quando invece ancora c'è vita. Secondo Peppino Englaro non c'è più vita e sono passati 17 anni, secondo altri invece ancora deglutisce persino, abbiamo sentito dire Eluana Englaro, per cui non le so dare francamente una risposta. Emilio da Bologna, buonasera. Buonasera dottor Cruciani, niente, io volevo semplicemente dire questo, riguardo al caso Battisti, io sono assolutamente d'accordo che il governo deve fare, e con lui anche tutti gli altri partiti d'opposizione, un forte segnale al Brasile, ma ho paura che il ministro del Brasile si sia spinto molto in là, l'abbia capito, solo che adesso per tornare indietro dal suo punto di vista è un problema. Allora, per una questione di realpolitik, non si potrebbe fare in modo che, come dire, lo tenessero in galera loro, ma avere garanzie che buttassero via la chiave, insomma, diciamo. Ma guardi, non credo sia così, Claudio. Vorrei fosse così, in realtà qui è stato dato lo status di rifugiato politico a Cesare Battisti, che è cosa ben diversa, e dunque credo che sia molto difficile tornare indietro. E la cosa è molto grave soprattutto perché lo status di rifugiato politico viene riconosciuto in casi di persone, insomma è stato riconosciuto per esempio agli antifascisti durante il regime mussoliniano, insomma non scherziamo su queste cose. Viene concesso in casi gravi in cui i diritti umani sono conculcati, in cui viene privata la libertà, eccetera. Non è davvero il caso di Battisti. La ringrazio. La ringrazio Emilio. Claudio ci chiama da Roma. Claudio, buonasera. Buonasera. Dica. Senta, cortesemente, io ho sentito che i probabili violentatori di Guidonia sono stati arrestati grazie alle intercettazioni telefoniche. Vorrei sapere, per quello che se ne sa, la legge sulle intercettazioni, chiedo scusa per la tosse, la legge sulle intercettazioni che viene proposta dal centrodestra avrebbe comunque consentito queste intercettazioni, o essendo il limite diciamo di condanna troppo basso non sarebbero rientrati? Ma guardi, leggo oggi che l'intesa della maggioranza riguarderebbe solamente il tempo delle intercettazioni, cioè devono durare 45 giorni tranne che per i casi di mafia e di terrorismo, poi viene escluso che ci sia il carcere per i giornalisti, dunque non cambierebbe, diciamo, il quadro da questo punto di vista, però insomma, poi bisogna aspettare il testo definitivo e anche le postille, le contropostille, i codicilli, eccetera, perché non ci sono mai risposte sicure da questo punto di vista prima che si vedano davvero le carte, e le carte ancora definitive non ci sono. Luca, sempre da Roma, buonasera. Sì, buonasera, dottor Cruciani. Innanzitutto volevo fargli i complimenti per la trasmissione. E volevo sovvelare sul caso Battisti. Tanto vedo che più o meno siamo tutti dello stesso parere. su quello che è accaduto. Sì, ma la cosa non è che sia per questo meno significativa, nel senso che noi insistiamo per una questione importante che riguarda il nostro paese, perché il fatto che un altro paese importante come il Brasile, democratico, pensi che in Italia non ci sia la libertà, che Battisti possa essere perseguitato, eccetera, è una cosa talmente grave da essere sottolineata più volte. Invece lei di cosa voleva parlare, Luca? Sì, no, vabbè, qui una parentesi, comunque l'Italia nel campo internazionale negli ultimi anni, anche con l'altro caso che è successo in Francia recentemente, non si è dimostrata all'altezza di certe situazioni. Questo lei me lo potrà confermare, signor dottor Cruciani? Ma guardi, non lo so, non so cosa significa non essere all'altezza della situazione. Il nostro è uno dei grandi paesi del mondo, partecipa al G8, eccetera, per cui non lo so. Io ho detto che in questo caso, secondo me, per vari motivi, tra cui un cambiamento di governo, eccetera, credo che i canali non siano stati oliati abbastanza, non ci sia stata sufficiente pressione in tutto questo tempo. Luca, prego. Sono d'accordo. Sul secondo argomento era su il caso di cui si è parlato moltissimo in questi giorni, soprattutto oggi, è lo stupro di Guidonia, dove io, cittadino romano di 31 anni, mi reputo una persona onesta e tranquilla, ma devo dire, dottor Cruciani, a dispiacere, che sento nei confronti di queste persone che commettono questi reati, stranieri e non, anche se principalmente negli ultimi tempi ci sono sentiti molto cittadini stranieri che compiono questi reati, mi sento dentro qualcosa di strano in particolare, non proprio odio, ma sicuramente un senso di potenza nei confronti di quello che viene fatto poi dalla giustizia, che in realtà non è quello che noi vorremmo che fosse fatto a queste persone. Sì, ho capito Luca, però lei dovrebbe un po' sopire questo tipo di reazioni che ha, perché non sono secondo me le reazioni corrette che bisogna avere in casi come questo. La ringrazio, ci sono 30 secondi per Silvio dalla provincia di Ancona, ma davvero 30 secondi perché dobbiamo concludere, Silvio. Buonasera Cruciani, io ero in Brasile a dicembre, sì. E c'era vicino, noi abbiamo una onlus con una scuola di bambini e vicino c'è arrivato Sarkozy con Carlà a Itacaré il 23 dicembre a passare qualche giorno di vacanza. Sì. Io credo che il ministro della giustizia brasiliana abbia ricevuto due file, uno dal ministro della giustizia italiana e uno dalla giustizia francese. E quindi questa lobby gauchista sicuramente ha pesato per quanto riguarda l'orientamento del ministro della giustizia brasiliana. Bisogna boicottare Italia-Brasile oppure no? Rapidamente. Sì, sicuramente. Ci sentiamo domani, sicuramente boicottare, dice Silvio, anche con lui ci sentiamo domani 18:30.